Coloro che si occupano dell'educazione hanno il dovere di seguire lo sviluppo fisico e psichico di ogni piccolo uomo affidato alle loro cure educative, avendo bene in mente che Allah non carica nessuno di un peso superiore alle sue capacità. I genitori hanno il dovere di giocare con il bambino, di circondarlo di calore e di affetto fino a 7 anni, poiché fino a questa età il bambino ha bisogno di vivere in un ambiente sereno e di sentirsi circondato da affetto e da amore. Il bambino, infatti, ha bisogno di sentirsi sicuro perché la sua personalità possa svilupparsi in modo equilibrato. Nei primi anni della vita, nell'età in cui l'uomo acquisisce il maggior numero di esperienze fisiche e intellettuali, i genitori musulmani devono essere esemplari nella pratica dell'Islam in famiglia, perché i bambini sono acuti osservatori, assorbono e assimilano in modo indelebile ogni aspetto del comportamento dei genitori, che sono per lui la fonte della sua sicurezza esistenziale, in base al rapporto di dipendenza alimentare di cui i piccoli sono istintivamente consapevoli. Oltre alla sicurezza materiale, al bambino deve essere offerta, cosa importantissima ai fini della costruzione della sua personalità individuale, anche la sicurezza morale. È attraverso l'esempio di vita offerto dai genitori che il fanciullo acquisisce tutti i dati comportamentali per elaborare da sé medesimo la linea di condotta che, prima di ogni definizione orale o insegnamento dottrinale in relazione al sentimento del bene e del male posto da Allah in ciascun individuo, coincide con i modelli di comportamento indicati da Allah e dal profeta. In un secondo momento, passando dall'esempio di vita alla dottrina, il bambino delinea con chiarezza e precisione gli spazi del comportamento islamico, definendo così, anche per via di esclusione, l'ambito dei comportamenti estranei all'Islam e o in contrasto con i modelli che Allah ha proposto come i modi in cui l'uomo deve plasmare la sua esistenza per realizzare la propria autentica dimensione umana. Il bambino, in questo periodo della sua vita, che è molto importante ai fini della sua formazione, deve avere una sicura guida morale. Solo così, infatti, egli non corre il tremendo rischio di cadere in preda al disorientamento che ha effetti deleteri sulla formazione della personalità. La struttura morale è fattore importantissimo per creare quella sicurezza di cui il bambino ha bisogno per crescere in modo equilibrato. Da ciò deriva che l'autorità morale espressa attraverso l'esempio è un valore che ha da essere assolutamente posto in primo piano dai genitori, i quali devono essere il punto di riferimento rassicurante per il bambino alla ricerca della propria identità nella selezione dei comportamenti da vivere e da perfezionare continuamente alla ricerca del meglio. Il bambino, la cui sensibilità è di molto superiore a quello che normalmente si pensa, sentendo nel comportamento dei genitori e nell'amore di cui essi lo fanno oggetto le condizioni fondamentali della propria esistenza, vedrà nel limitarli una via sicura per diventare come loro. Questo è il momento in cui il bambino prende coscienza, osservando il comportamento della famiglia e della comunità, dell'esistenza di un codice di comportamento al quale il gruppo a cui egli sente di appartenere si conforma. E la presa di coscienza di appartenere a un gruppo caratterizzato da una precisa identità espressa dai comportamenti determina la sua adesione imitativa ai modelli offerti dalla linea di condotta di coloro nei quali egli ha fiducia. A 7 anni, già entrato nell'età scolare, il bambino incomincia a ragionare ed è a questa età che egli, opportunamente istruito nei concetti base della religione durante la sua infanzia, incomincia a fare consapevolmente la preghiera, poiché questa è l'età in cui l'uomo, incominciando ad apprendere con una certa sistematicità i dati della sua esperienza, incomincia a costruire nella sua mente un primo reticolo concettuale attraverso il quale cataloga le cose e i fatti. A partire dai 7 anni ha inizio un periodo nel quale l'attività educativa deve diventare più intensa, perché è nel corso dell'adolescenza che si formano a livello psicologico le prime strutture portanti e definitive della personalità. In questo periodo, dai 7 ai 14 anni, i genitori e gli educatori musulmani hanno da operare con molta intelligenza per far mettere profonde radici al sentimento religioso nel cuore del fanciullo e, conseguentemente, a fare sbocciare in esso l'amore per la pratica consapevole e informata della religione. Questo, infatti, è il periodo della vita durante il quale più facilmente è possibile far prendere al bambino quelle buone abitudini islamiche nel suo comportamento, dalle quali difficilmente si allontanerà nella sua vita adulta.